Il punto di Stefano Folli. Da oggi allora si volta pagina. C'è un governo e una nuova maggioranza che devono dimostrare di esistere nel giorno per giorno, non solo nei voti di fiducia. C'è Berlusconi che deve reinventarsi al di là dello psicodramma. Un extraparlamentare condannato che vuol far politica fuori del Parlamento senza cadere nella tentazione eversiva. C'è un giovane leader, Renzi, per il quale la strada si è fatta impervia. Era più facile quando dall'altra parte c'era il solito Berlusconi. Adesso bisogna aiutare Letta a governare e non solo a parole, se non si vuole passare per destabilizzatore di un esecutivo che ormai assomiglia a un monocolore del Partito Democratico. Soprattutto la pagina la voltano gli italiani, delusi da questo ennesimo teatro della politica autoreferenziale, il teatro in cui si è consumato l'ultimo atto di una seconda repubblica mai veramente nata. Ora Berlusconi non è più in Parlamento, per lui è l'esito inevitabile e triste di un lungo braccio di ferro, per gli altri è la fine di un comodo alibi.